Stefano dice: per me Balotelli stava già pensando a come non esultare. Ora, sembra una battuta, ma non so se è una battuta fino in fondo. Non vorrei che questo ignoto ascoltatore, ignoto fino a un certo punto, sì, ignoto perché non lo si conosce, però che sia firmato Stefano, non vorrei che in questo messaggio avesse davvero centrato, avesse davvero risolto questo enigma che indubbiamente dalle cose erano le 19. 19:15 circa, 19:10 di domenica sera, effettivamente un minimo di tormento te lo dà, no, tormento no, ma di curiosità te la suscita. Dici, ma cosa stava pensando Balotelli? Ma perché si è fermato a rallentare fino a quel punto? Forse, scrive Stefano, stava già pensando a come non esultare, e se non è fuoco, è fuochino comunque, non è acqua qua è fuochino, fuochino, mi sa.